insieme, avere d'improvviso la certezza di volare, sentire mille dita come ali da allargare, uscire dalla nebbia, farla scivolare via. Sognare, entrare in ogni filo d'erba e riposare, e crescere, fiorire, ritrovare radici che faremo sprofondare ancora in noi. Pensare e non trovare niente da pensare, ed essere un respiro e finalmente respirare l'intimo silenzio di un profondo cielo blu. E insieme sentire che ci sta correndo dentro un nuovo fiume, abbandonarci nelle sue improvvise piene. L'improvviso tutto in un istante ricordare. E ancora il mondo d'intorno nei tuoi occhi si colora, si sveglia la vita e nuovamente si innamora. Adesso è come la vogliamo noi. Parole, cogliamo una goccia d'ora e la chiamiamo fiore. Vediamo in alto un fuoco e lo chiamiamo sole. Parole che non sapevamo più. Ancora insieme, sentire che ci sta correndo dentro un nuovo fiume, abbandonarci nelle sue improvvise piene, chiamarlo desiderio che è in noi. E sempre insieme, far nascere dal niente ancora un nuovo seme, e questa cosa grande ancora senza nome, chiamarla col tuo nome, con il mio, chiamarla amore. E ancora insieme, sentire che ci sta correndo dentro un nuovo fiume, e questa cosa grande ancora senza nome, chiamarla col tuo nome e con il mio, chiamarla amore. Chiamarla amore, nah. Chiamarla amore, nah, nah, nah. Chiamarla amore, chiamarla amore.